che più mi ferisca di un sorriso forzato e di una presenza inquieta che mi spaventa e debilità. Le mie difese quando sono fuori e dentro dalla stanza, né a destra né a sinistra, sulle sponde del fiume che sogno nitido, nitido. Thank you.